tanto il sole sul verde smeraldo. E quanto è immenso l'oceano di ghiaccio. E all'orizzonte nessuna forma bestia. Nessuna forma bestia. Lontano, lontano, sul calar dei nostri occhi, nessuna forma bestia, nessuna forma bestia.